Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Il vaccino ha mostrato un'efficacia altissima. La soglia per essere approvati era il 50% di riduzione del numero dei malati in un gruppo, nel gruppo trattato rispetto al placebo. La possibilità di sapere se un paziente ha risposto o meno è data dalla risposta anticorpale e sì, possiamo dire che l'Italia avrà studi specifici nel prossimo anno su diverse popolazioni per sapere anche la risposta complessiva, a che livello si situerà, se pari alle attese o meno, e si valuterà quindi sia l'efficacia sia gli effetti indesiderati o reazioni avverse. Le 21, 1 minuto e 47 secondi. Buona serata da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. Il direttore generale Nicola Magrini dell'Agenzia Italiana del Farmaco, lo avete sentito, ha dato via libera all'immissione in commercio del vaccino anti-Covid dell'azienda Pfizer BioNTech. E ora sono pronte le regioni? Andremo a vedere cosa accadrà, in particolare in Lazio e in Sardegna. Si attendono le 9.750 dosi che arriveranno il 26 dicembre per essere subito disponibili il giorno dopo, il 27, per il vaccino che verrà fatto in tutta Europa. In cima alla lista delle somministrazioni in Italia ci saranno una giovane infermiera, un operatore sociosanitario e poi una ricercatrice e due medici, tutti dello Spallanzani di Roma. Ma oggi fra i vari temi c'è anche la politica, con la delegazione di Italia Viva che ha preso qualche giorno di tempo per esaminare la documentazione illustrata nel corso dell'incontro con Conte sul Recovery Plan. Dopo lunedì partiranno i tavoli di confronto. Poi la manovra, che è all'esame della Camera. Ci sono poi i nostri concittadini bloccati in Inghilterra. Per loro la situazione si è in parte risolta. Infine il campionato di calcio. I numeri per scriverci: 349-238-6666. Ora le principali notizie della giornata. Via libera dell'AIFA al vaccino Pfizer BioNTech. Nessuna controindicazione. Scende il rapporto tra tamponi e positivi, si lavora al rientro dei connazionali dalla Gran Bretagna. Recovery Fund, confronto tra Conte e Italia Viva, la prossima settimana partiranno i tavoli. Calcio in campo Juve e Napoli, il collegio di garanzia accoglie il ricorso dei partenopei. Una serata ancora una volta dalla redazione. L'Agenzia Italiana del Farmaco, lo dicevamo, dà via libera al vaccino Pfizer BioNTech. Tutti i maggiori di 16 anni potranno vaccinarsi senza controindicazioni. Saranno i militari a distribuire le dosi. Arriva il disco verde dell'Agenzia Italiana del Farmaco all'immissione in commercio del vaccino anti-Covid delle aziende Pfizer-BioNTech. L'annuncio in una conferenza stampa alla presenza del presidente dell'AIFA Giorgio Palù e del direttore generale Nicola Magrini. Sentiamo Magrini. Il vaccino è approvato per tutta la popolazione al di sopra dei 16 anni ed è importante aggiungere che non ha controindicazioni assolute. Un vaccino con un margine di sicurezza elevatissimo, aggiunge Palù, intorno al 95%, una percentuale che si trova solo nei vaccini del morbillo e della rosolia. E rispetto all'efficacia dell'antidoto contro la variante inglese del virus, le prime rassicurazioni sono arrivate dal fondatore di BioNTech, Ugur Sahin. È altamente probabile, ha affermato, che il vaccino sia efficace anche contro il Covid-bis. Con l'approvazione di AIFA, l'Italia fa dunque un nuovo passo verso il vaccino Day del 27 dicembre. La prima tranche simbolica di 10.000 dosi sarà scortata dall'esercito fino allo Spallanzani di Roma, dove le prime 5 somministrazioni saranno destinate ad altrettanti operatori sanitari dell'Istituto Romano: un'infermiera, un operatore sociosanitario, una ricercatrice e due medici. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Agenzia Europea del Farmaco ha reso noto che la richiesta per l'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino Covid-19 sviluppato da Moderna è attualmente in corso e potrebbe essere conclusa in una riunione straordinaria dell'EMA il 6 di gennaio. Scende intanto il rapporto tra tamponi e positivi all'8%. Veneto e Lombardia sono le regioni dove si contano più contagi. La buona notizia di questo martedì 22 dicembre è il netto calo del tasso di positività, sceso in 24 ore da oltre il 12% all'8,01. Si tratta del dato più basso registrato in questo dicembre. Per trovare una percentuale paragonabile bisogna infatti arretrare sino alla fine di ottobre. I decessi però sono ancora tanti, 628 nelle ultime 24 ore, oltre 200 in più rispetto a ieri. Anche i casi sono in aumento, 13.318, circa 2.500 in più di ieri, ma a fronte di oltre 166.000 tamponi processati, quasi il doppio rispetto ai precedenti. Meno 44 i ricoveri nelle terapie intensive, quelli nei reparti ordinari sono calati di 187 unità. Tra le regioni, il Veneto si conferma la più colpita, con 3.082 nuovi positivi. Seguono la Lombardia, con 2.278, Lazio ed Emilia-Romagna, che restano sopra i 1.000, e la Sicilia, che ha contato 894 nuovi casi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Potranno tornare in Italia dalla Gran Bretagna i cittadini residenti in Italia o coloro che sono in condizioni di criticità e urgenza. È quanto è stato deciso nel corso di una riunione alla Farnesina. Bruxelles chiede di rimuovere i bandi dai voli e treni essenziali da Londra. Vanno predisposti servizi efficaci che garantiscano la corretta osservanza dei divieti previsti dal decreto di Natale. La circolare inviata ai prefetti dal Viminale per la corretta interpretazione delle misure previste dal decreto con le misure anti-Covid per le feste. 70.000 agenti in più a vigilare sul rispetto delle regole, in particolare lungo le strade e in ambito urbano, e sanzioni da 400 a 1.000 euro per i trasgressori. Regole tra le quali però è ancora difficile orientarsi tra alternanza di giorni rossi, 10, e arancioni, 4, deroghe, permessi e divieti. Fino al 7 gennaio stop allo spostamento tra regioni. Ancora per tutto il 23 dicembre sarà possibile prendere un caffè al bar, pranzare al ristorante, fare acquisti nei negozi, spostarsi senza autocertificazione. Dal 24 al 27 invece si entra nei giorni rossi, chiusi bar, ristoranti e negozi se non quelli di prima necessità, obbligo di autocertificazione per spostamenti possibili solo per lavoro, salute, necessità o per tornare alla propria residenza o domicilio. Per tutte le festività però c'è la deroga che consente ad un massimo di 2 persone, più eventuali figli minori di 14 anni, disabili e persone non autosufficienti, di muoversi una sola volta al giorno per andare a trovare parenti o amici. E nei giorni arancioni, ma solo per i comuni fino a 5.000 abitanti, entro un raggio di 30 chilometri, sarà possibile farlo anche in un'altra regione, esclusi capoluoghi di provincia. Sì, allo spostamento nelle seconde case, ma entro i confini regionali. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. A proposito di mobilità, in vista del 7 gennaio e della probabile riapertura delle scuole, potenziamento del trasporto pubblico a Milano e provincia di ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano e di Trenord. Dal 7 gennaio Milano modificherà gli orari della città per rendere possibile il ritorno in classe degli studenti per il 75% in presenza. L'obiettivo è quello di consentire al 50% l'ingresso entro le 8 del mattino e al 25% dalle 9.30. A Milano e in provincia si tratta di circa 140.000 studenti interessati tra scuole superiori e centri di formazione professionale. Marco Granelli, assessore al Comune di Milano e coordinatore degli assessori alla mobilità sostenibile dell'ANCI. Il piano del prefetto che abbiamo costruito insieme col Politecnico, con ATM, Ferrovie Nord, Comune, Città Metropolitana, dice con chiarezza: primo obiettivo, diversificare gli orari. La fascia di punta tra le 8 e le 9 è quella dove dobbiamo cercare di spostare più persone da questa fascia. I negozi, tranne quelli legati ai servizi essenziali, apriranno alle 10.15 del mattino. Alle 9.30 apriranno tutti i servizi alla persona e gli uffici pubblici, ma continuerà il potenziamento del trasporto pubblico locale, oltre 800 corse aggiuntive al giorno e 60 bus navetta che serviranno 32 tra istituti e plessi scolastici milanesi più frequentati, oltre alle scuole situate fuori dal comune nel primo Interland, anche grazie a un'app per gli studenti. Noi continuiamo a chiedere di usare anche mobilità sostenibile, dove è possibile la bici, anche lo sharing. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Il governo è alle prese anche con questioni più puramente economiche. In merito al Recovery Fund, la delegazione di Italia Viva ha preso qualche giorno di tempo per esaminare la documentazione illustrata nel corso dell'incontro con Conte. Dopo lunedì partiranno i tavoli di confronto. Nella maggioranza riparte il confronto sul recovery plan dopo giorni di tensioni. Al termine dell'incontro con il premier Conte, Italia Viva, che aveva minacciato una crisi di governo, parla di passi avanti. Nel documento non c'è più il riferimento alla task force, spiega soddisfatta la ministra Bellanova, capodelegazione del partito di Renzi. È scomparsa tutta la questione sulla governance e finalmente si incomincia a discutere con i numeri e nel merito dei vari progetti. ci siamo riservati di poter presentare un nostro documento. Sul tema della governance, il ministro Amendola sottolinea però che a chiederla è l'Europa. La Commissione europea chiede appunto che ogni paese si organizzi con una struttura che non sostituirà i ministeri, come è stato detto, ma che aiuterà ovviamente un lavoro positivo la pubblica amministrazione. A chiudere la verifica di maggioranza è stata la delegazione di LeU che ha chiesto di riequilibrare le risorse destinate alla sanità. Dei tavoli di confronto sul recovery plan dovrebbero partire all'inizio della prossima settimana. L'obiettivo di Conte resta quello di approvare il documento entro fine anno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sulla manovra in corso i lavori alla Camera. Il governo si appresta a chiedere la fiducia alla Camera sulla manovra dopo la messa a punto di un maxi emendamento da oltre 1000 commi. Un primo passo sul via libera alla legge di bilancio che deve essere definitivamente approvata dal Parlamento entro fine anno. Tante le novità in arrivo, dagli ammortizzatori sociali anche per i lavoratori autonomi con un assegno fino a 800 euro per 6 mesi, al bonus occhiali e lenti a contatto per le famiglie più in difficoltà. Più ricco poi il bonus mobili con il credito d'imposta che sale da 10.000 a 16.000 euro. Previsto anche un bonus rubinetti da 1.000 euro con uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro. E per le famiglie con un ISEE sotto i 20.000 euro c'è il kit digitalizzazione che include un cellulare incomodato d'uso connesso a internet, un abbonamento a 2 quotidiani e l'app Io. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dagli specializzandi e i medici pensionati in corsia fino alla produzione di in deroga delle mascherine, passando per l'operatività del commissario Domenico Arcuri, arriva con il decreto mille proroghe una serie di prolungamenti di misure messe in campo dall'inizio dell'emergenza che altrimenti si fermerebbero alla fine dell'anno. 18 milioni di contagi negli Stati Uniti, il virologo americano Fauci si è vaccinato in diretta streaming insieme ad altri responsabili e membri dello staff dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive statunitense. Fauci ha ribadito l'appello agli americani a seguire il suo esempio, garantendo come il vaccino anti-Covid sia, ha detto, efficace e sicuro. Il Parlamento turco ha approvato stasera una mozione che estende l'autorizzazione al dispiegamento delle truppe in Libia per altri 18 mesi. Il testo prevede la prosecuzione della missione di addestramento e supporto militare alle forze del governo di Tripoli, riconosciuto dall'ONU di al-Sarraj, in scadenza a fine anno. E ora la cronaca: in Italia proseguono le indagini sull'omicidio del ginecologo avvenuto a Milano 2 giorni fa. Non sarebbero state rilevate per ora impronte sul coltello ritrovato sabato accanto al cadavere di Stefano Ansaldi, il ginecologo campano di 65 anni trovato sgozzato vicino alla stazione centrale di Milano. Le analisi della scientifica sono comunque ancora in corso. Nelle indagini dei carabinieri tutte le ipotesi sono al vaglio e non c'è ancora una pista prevalente. I 2 testimoni che hanno visto l'uomo crollare a terra non hanno notato persone fuggire. La prima ipotesi era quella della rapina finita male, ma l'efferatezza dell'omicidio, il Rolex lasciato a terra e il coltello abbandonato vicino al cadavere farebbero pensare a un omicidio per motivi personali. Investigatori e inquirenti indagano su attività e conoscenze del medico. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora il calcio. Juve-Napoli si rigiocherà il collegio di garanzia presso il CONI. Ha accolto il ricorso del Napoli contro lo 0-3 a tavolino nella partita contro la Juventus. E proprio la Juventus è in campo da circa mezz'ora con la Fiorentina. In diretta Giovanni Capuano, buonasera. Sì, buonasera. Juventus che in questo momento è sotto per 1-0 contro i Viola in una gara che è iniziata veramente in modo incredibile. Dopo 3 minuti il vantaggio realizzato in contropiede da Vlahovic, che è stato lanciato da Ribéry nella metà campo difensiva della Juventus, lasciata completamente scoperta dai giocatori bianconeri. Juventus che di fatto quasi non è entrata in campo al 18esimo, è rimasta in 10 per l'espulsione di Cuadrado, brutto intervento su Castrovilli da parte del colombiano, in un primo tempo ammonito dalla penna, poi richiamato al VAR da Mazzoleni, e a quel punto il cartellino da giallo è diventato rosso. Pirlo ha tolto Ramsey, ha messo Danilo, ma la Fiorentina continua a godere di grandissimi spazi nella metà campo della Juventus. C'è stata una conclusione di Ribéry e poi due minuti fa al 26esimo una clamorosa occasione per il raddoppio dei Viola, 4 contro 2 dentro l'area di rigore di Szczęsny, che poi ha compiuto un vero miracolo sull'ultima conclusione, quella di Castrovilli. Dunque Juventus che sta soffrendo, Juventus che ha perso oggi 3 punti in classifica per la sentenza che hai citato da parte del collegio di garanzia del CONI, si rigiocherà probabilmente a gennaio e in questo momento la squadra di Pirlo si trova a 7 lunghezze dalla capoclassifica Milan, seppure con una partita in meno. Nell'altro anticipo che si è giocato oggi, ti ricordo, il Crotone ha battuto 2-1 il Parma, doppietta di Messias e gol di Kučka. Crotone che con questo risultato abbandona per Natale l'ultimo posto in classifica. 29esimo che sta scadendo a Torino, Juventus 0, Fiorentina 1, ti restituisco la linea. Grazie Giovanni Capuano, che risentiremo in chiusura. Noi ci fermiamo per il traffico, poi andiamo a Londra. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ve le ricordate Federica e Valentina, le due italiane che abbiamo sentito ieri sera da Londra? Erano bloccate lì nonostante avessero un volo che è stato cancellato, una addirittura non aveva più un posto dove dormire. Beh, sembra un po' che si vada verso un lieto fine per questa odissea degli italiani rimasti bloccati nel Regno Unito dopo 48 ore di vero panico. Dovranno però sottoporsi a un doppio tampone prima e dopo il viaggio e poi dovranno fare la quarantena di 14 giorni, ma chi? Soltanto quelli residenti in Italia e quelli in condizioni di criticità e urgenza, quindi non gli italiani stabili nel Regno Unito, quindi le persone residenti in Inghilterra. Quindi si va risolvendo, ma solo per una parte di loro. Buonasera Giorgia Scaturro. Buonasera a voi. La comunità italiana che è residente stabilmente in Inghilterra è numerosa in realtà, Giorgia, quindi sono esclusi tutti coloro che risiedono stabilmente nel Regno Unito e pensavano di tornare per fare visita alle famiglie a Natale e a Capodanno. Esattamente, diciamo sono 700.000 gli italiani in Inghilterra, molti appunto sono stabili, però ecco, il Natale in famiglia è sempre qualcosa che vogliamo fare anche in casi di pandemia e forse soprattutto dopo essere stati lontani così tanto tempo. Oggi però parlavo con degli italiani che non sono riusciti a partire, che dovevano ritrasferirsi in Italia dopo aver vissuto qui 8 anni e quindi erano pronti con le valigie, i pacchi, gli scatoloni con tutte le loro cose e non possono farlo perché, o perlomeno fino ad ora non hanno potuto farlo perché non c'erano i voli bloccati e anche per quel che riguarda il trasporto delle merci, quindi le spedizioni, non è possibile farle. Ebbene, bene che si sia sbloccata la situazione con la Farnesina che ha predisposto questo piano per il rientro quantomeno dei residenti e sappiamo già anche che Alitalia sta predisponendo i voli, si è dichiarata pronta a venirli a prendere e i nostri connazionali starebbe soltanto aspettando delle indicazioni in questo senso da parte del governo. Anche Parigi ha riaperto i collegamenti con Londra, gli aerei, le navi e i treni Eurostar riprenderanno il loro servizio da domani mattina, ovviamente è richiesto il tampone per il Covid e si è saputo anche che in Belgio ci sono stati 4 casi di variante Covid inglese a inizio dicembre. C'erano già state notizie di casi di variante inglese in Danimarca, in Olanda ieri. Questo blocco dei voli, Giorgia, ha un sapore quasi punitivo, come se l'Europa continentale stesse facendo assaggiare alla Gran Bretagna il sapore di una Brexit di fatto, soprattutto il timore della mancanza di approvvigionamenti sarà piuttosto alta nel paese, ne parlavamo anche ieri. Sì, assolutamente. No, diciamo intanto che qui gli addetti scientifici tendono a sottolineare quanto sì, abbiamo la variante, però abbiamo anche dei laboratori di sequenziamento genomico che sono molto all'avanguardia, quindi noi l'abbiamo individuata prima questa variante Covid, tuttavia non è escluso che ci siano degli altri epicentri in altri paesi del mondo che quindi ora ci siano maggiori controlli. Detto questo, ecco, sta tanto di prova generale per quello che verrà comunque dal 1 gennaio, perché sia che ci sarà un deal, quindi un accordo sulle future relazioni fra i due lati della Manica, sia che non ci sia, ci saranno comunque burocrazie, rallentamenti. A questo punto si parla anche di test, tamponi per camionisti, per le varie persone che si muoveranno. Quindi sì, siamo tutti un po' preoccupati per gli approvvigionamenti di soprattutto frutta e verdura, che ricordiamo, le categorie ci fanno presente che possiamo arrivare a dopo Natale, ma dopo ci saranno dei problemi. Pare che la situazione si stia sbloccando, già da domattina il canale della Manica dovrebbe essere aperto, ovviamente previ tamponi, e quindi ci si aspetta che lentamente questi 3.000 tir che sono in questo momento bloccati a Dover possano rifluire. I numeri che arrivano dalla Gran Bretagna riguardo il Covid sono importanti. C'è stato un nuovo picco oggi di casi, 36.807. Bisogna anche dire che i tamponi eseguiti sono 420.000, quindi tantissimi. I morti sono risaliti a 691. Però tu ieri ci dicevi che molte persone non usano la mascherina, né all'aperto né al chiuso. No, siamo partiti male per quel che riguarda l'uso della mascherina, ovvero la mascherina era vista come qualcosa che ci avrebbe proibito di mantenere le distanze di sicurezza, il distanziamento, perché avendo la mascherina ci saremmo sentiti più propensi a stare vicini, quindi siamo quasi stati scoraggiati fin dall'inizio all'uso della mascherina. Bisogna dire che Boris Johnson se ne è accorto a luglio, che probabilmente la mascherina poteva anche proteggerci, e quindi è diventata obbligatoria nei negozi, semplicemente però non ci sono rafforzamenti delle misure e delle richieste di portare la mascherina, non ci sono controlli, dovrebbero esserci multe che però non vengono fatte rispettare, non ci sono poliziotti in giro che te la fanno usare, e quindi diciamo ancora si è molto reticenti a associare a mascherina a protezione. Un'ultima questione che vorrei analizzare con te è quella della Brexit. Il capo negoziatore europeo, Michel Barnier, riferendo agli ambasciatori dei 27, ha detto oggi che sono stati compiuti progressi, ma la pesca resta lo scoglio. Anche qui c'è un countdown e quindi siamo proprio alle ultime battute di queste trattative. Esattamente, sì, inizialmente si pensava che anche la questione pesca potesse essere risolta, perché da parte del primo ministro Boris Johnson c'era stato un allentamento nelle richieste, ovvero all'inizio richiedeva che l'Unione Europea rifondasse il 60% dei proventi della pesca fossero ritornati alla Gran Bretagna, successivamente aveva detto no, va bene, facciamo il 35%, e quindi c'era un avvicinamento anche all'Europa. Anche per quel che riguarda il periodo di transizione, Boris Johnson voleva che tutto fosse risolto in 3 anni, l'Unione Europea voleva 7 anni di come transizione sulla pesca. Si era arrivato a un punto di mezzo di 5 anni, tuttavia Barnier ha reputato che queste non siano ancora delle condizioni accettabili sul fronte della pesca, dove ricordiamo i pescatori europei hanno dei secolari diritti di pesca, e buona parte delle quote britanniche nelle loro acque sono state proprio cedute ai pescatori danesi e se non francesi e altri europei. Quindi in questo momento si tratta di riappropriarsi di quote che sono state date, cedute, e questa è la bagarre che in questo momento non sembra abbia una fine. Ma abbiamo ancora qualche giorno, dall'Unione Europea sono anche propensi ad andare oltre la scadenza del primo di gennaio nelle trattative. Qui, nonostante gli appelli del primo ministro scozzese Nicola Sturgeon e del sindaco di Londra di allungare il periodo di transizione per risolvere le questioni, non trovarci in situazioni come quella che stiamo vivendo in questo momento, Boris Johnson categoricamente dice no, la transizione non si allunga, il primo gennaio vediamo quel che succede, ma a noi va benissimo anche uscire ai termini dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e quindi tariffe. Grazie a Giorgia Scaturro da Londra. A voi, buona serata. E noi cambiamo argomento, andiamo alle questioni italiane con l'economia, con Teresa Trillò. Buonasera. Buonasera a te, Valentina. Cosa è accaduto? La Ragioneria dello Stato in questo pomeriggio ha bocciato 14 norme perché senza copertura. Stiamo parlando chiaramente della manovra. Salta tra l'altro la salvaguardia per gli esodati. Cosa sta succedendo, Teresa? Sta succedendo che in queste ore chiaramente si sta accelerando per l'approvazione della manovra. Ricordiamo che la manovra e la legge di bilancio devono essere approvate entro la fine dell'anno. Quindi, come ogni anno, è la corsa contro il tempo. In questi giorni, in quella commissione bilancio alla Camera, c'è stata l'approvazione di un maxi emendamento di oltre 1000 commi che prevedevano delle novità rispetto al testo base. Ora tutto quanto è approdato in aula alla Camera, se ne devi discutere, e la Ragioneria ha fatto però dei rilievi, e tra questi rilievi c'è appunto, come dicevi tu, la norma sugli esodati, perché sarebbe la non salvaguardia per gli esodati, e secondo la Ragioneria questo aumenta la spesa pensionistica e non è conforme anche alle linee guida dell'Unione Europea, e quindi ha detto che questa cosa non si può fare. Poi ci sono altri rilievi su altre norme, una ad esempio ha detto anche di no alla norma che taglia l'IVA sui vaccini. E quindi ora ci dovrà essere una riunione dei capigruppo, nella notte si tornerà a lavorare perché la manovra dovrebbe approdare in aula e il governo dovrebbe chiedere la fiducia anche per accelerare i tempi e dovrebbe arrivare il primo sì da parte della Camera prima di Natale, prima del 24. Poi la manovra dovrebbe passare al Senato per una breve valutazione, cioè per la votazione anche in Senato, e a quel punto dovrebbe chiudersi. Invece per quanto riguarda la crisi di governo, sembra rientrata per ora. La delegazione di Italia Viva è andata oggi a Palazzo Chigi. Sentiamo la ministra Bellanova, che è anche capodelegazione di Italia Viva. Intanto credo che sia positivo che finalmente cominciamo a discutere di contenuti, non si parla di task force perché, come vedete, quella proposta non è inserita negli emendamenti, nella legge di bilancio. Adesso incominciamo a lavorare nel merito, perché quello è quello che interessa, credo, a questo paese: come si impegnano le risorse e come si danno risposte alle emergenze che ci sono. La ministra Bellanova faceva riferimento alla task force per il recovery plan, che sembra archiviata. Appuntamento a lunedì, Teresa, no? Ma la crisi sembra più lontana. Sì, sembrerebbe più lontano, quantomeno potrebbe essere stata disinnescata. Oggi Conte ha concluso infatti il giro di incontri con i partiti di maggioranza, come dicevi tu, ha visto Italia Viva e l'EU. Italia Viva aveva innescato questa richiesta di chiarimento all'interno della maggioranza, e il motivo del contendere era proprio questa task force sul recovery plan, perché nelle intenzioni del governo per gestire i progetti del recovery plan, ricordiamo che sono oltre 200 miliardi che Bruxelles mette a disposizione del nostro paese per arginare la crisi innescata dalla pandemia. E prevedeva anche una task force formata da 300 persone, da 6 manager, e secondo Italia Viva questa struttura in qualche modo depotenziava il ruolo del Parlamento, e quindi si era detta contraria. Ora, dall'incontro che c'è stato oggi, è venuto fuori che sostanzialmente ci potrebbe essere una retromarcia su questa task force, anche se il ministro per gli affari europei dice che comunque una struttura di controllo dei progetti da attuare con i soldi che arrivano da Bruxelles è prevista proprio dalla comunità. Italia Viva dice che la struttura non esiste più e quindi ora si può tornare, si può discutere, si può andare avanti. I tempi sono abbastanza stretti anche in questo caso, perché appunto il ministro Amendola si augura che il piano possa essere presentato a metà febbraio alla Commissione Europea. E quindi entro fine anno il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il piano. Lunedì e martedì prossimo ci sarà un nuovo giro di tavolo con i partiti di maggioranza proprio per lavorare sui progetti da mettere nel recovery plan. Dovrebbero essere 52 che vanno più razionalizzati anche alla luce degli incontri che ci sono stati. E quindi vedremo se queste nubi sopra il governo scompariranno. Grazie Teresa Trillò. Grazie a te. Noi ci fermiamo per il meteo, ma rimanete con noi perché subito dopo abbiamo il professor Crisanti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Buonasera ad Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologia all'Università di Padova. Buonasera professore. Buonasera e grazie per l'invito. Si avvicina il 27 dicembre, data in cui tutta Europa inizia la vaccinazione di massa. Grandi aspettative, ci sarà una copertura, possiamo stare tranquilli anche adesso che siamo preoccupati per questo virus inglese mutato? Siamo preoccupati fondamentalmente perché è un virus che sembra diffondersi molto più rapidamente. Siamo un po' meno preoccupati per quanto riguarda la capacità di diagnosticarlo questo virus. Per quanto invece concerne la capacità del vaccino di proteggere anche contro questa variante, ci sono degli studi in corso, quindi penso che lo sapremo tra breve. Comunque ci sono già degli annunci delle ditte che hanno sviluppato il vaccino che sembrano suggerire che gli anticorpi prodotti dal vaccino sono in grado di neutralizzare il virus, e questa sembrerebbe essere una buona notizia se confermata. Questo virus però preoccupa anche perché sembra che si trasmetta più velocemente. Beh sì, questo sicuramente, però guardi, sono ancora tutti studi su modelli matematici e quindi anche lì bisogna un attimo verificare quanto è più trasmissibile del ceppo che ci abbiamo adesso, insomma, quindi però sicuramente è un ceppo che ha diverse mutazioni, dare tipo 14 o 15 mutazioni, di cui alcune appunto sulla proteina S che è il bersaglio del vaccino, altre mutazioni su quelle che sono invece le molecole che vengono utilizzate per i test diagnostici. Comunque sembra che al momento non abbia interferenza sui test diagnostici. Il piano di vaccinazione in Italia dovrebbe partire con gli operatori sanitari e poi gli ottantenni. Le sembra un piano coerente? Lei avrebbe agito così? Sarebbe partito da queste categorie? Ma guardi, sicuramente i sanitari sono una priorità per una ragione molto semplice, perché sono a contatto con pazienti, sono sicuramente esposti alla trasmissione, ci abbiamo avuto un numero fin troppo alto di personale sanitario infetto e non ce ne sta tantissimo, quindi chiaramente in una situazione in cui abbiamo trasmissione preservare il personale sanitario è sicuramente una priorità, e dopo chiaramente le persone vulnerabili, quindi mi sembrano delle priorità assolutamente adeguate alla situazione. Dal Veneto, che lei ha seguito moltissimo nel primo lockdown in primavera, alla Sardegna, perché lei sarà il regista, diciamo così, dello screening di massa in Sardegna e della campagna di vaccinazione. Sì, ma diciamo in qualche modo cerchiamo di fare tesoro da quella che è stata l'esperienza positiva del Veneto, che praticamente faremo uno screening di massa combinato antigenici e tamponi molecolari per bloccare le catene di trasmissione e quindi diminuire il numero dei casi e la pressione sugli ospedali. Chiaramente l'obiettivo ambizioso è quello di arrivare tra 5-6 mesi con livelli di trasmissione bassissima. Questo è il piano, quindi per quanto riguarda la vaccinazione invece cosa prevedete? La Sardegna ha in questo la fortuna di essere un'isola. Sì, ha la fortuna di essere un'isola e questo sicuramente è un vantaggio logistico, c'ha anche comunque delle vulnerabilità perché essendo un'isola chiaramente c'ha tutta una serie di problematiche relative agli approvvigionamenti, relative all'adeguamento tecnologico e così via, quindi bisogna cercare di fare leva sui punti di forza, sul fatto che è un'isola, sul fatto che ha una densità di popolazione relativa, diciamo, bassa, e quindi è anche una mobilità tra le varie città non paragonabile a quella della Lombardia e del Veneto, quindi questi sono sicuramente tutti i fattori che giocano a favore delle azioni che in qualche modo limitano la trasmissione. Per gennaio ci dobbiamo aspettare una terza ondata e soprattutto le famiglie possono sperare che i ragazzi possano tornare a scuola, parlo delle superiori chiaramente. Diciamo, questa esperienza di zone gialle, rosse e arancioni sicuramente ci ha insegnato qualcosa, ci ha insegnato che le zone rosse in qualche modo funzionano a scuole chiuse, non sappiamo se le zone rosse funzionano a scuola aperta, questo lo scopriremo tra poco. Le zone gialle non sembrano funzionare, sicuramente il Veneto ne è l'esempio più eclatante, non funzionano forse anche per un uso magari non corretto dei tamponi antigenici, che è stato utilizzato come uno strumento di prevenzione invece che come uno strumento di screening. Vabbè. Quindi chiaramente rimane ancora un'incognita l'impatto dell'apertura delle scuole, anche perché l'apertura delle scuole comporta anche uno stress sul sistema dei trasporti, comporta anche più opportunità di incontro tra adolescenti e quindi sono tutti fattori ancora ignoti. Lei consiglierebbe la riapertura delle scuole o aspetterebbe ancora un po'? Guardi, io consiglierei l'apertura delle scuole senza indugio, perché le scuole sono sicuramente, guardi, la didattica a distanza sfavorisce sicuramente le persone più disagiate che hanno un reddito inferiore, e sicuramente poi nella didattica non è soltanto apprendere ma anche imparare a vivere insieme ad altri e imparare da altri, quindi sicuramente la didattica in presenza è una cosa fondamentale, bisogna cercare di coniugarla in situazioni dove non aumenti la trasmissione. Ora, il vero problema qui è che ancora non sappiamo con certezza l'impatto dell'apertura delle scuole sulla trasmissione. Grazie professore. Incognita. Grazie a lei, arrivederci. Abbiamo affrontato anche con il professor Crisanti il piano vaccini che dal 27 in contemporanea in tutti i paesi europei inizieranno ad essere utilizzati. Delle 9.750 dosi per l'Italia che dovranno essere utilizzate nei successivi 4 giorni, 179.000 sono quelle che sono destinate al Lazio. Buonasera ad Alessio D'Amato, assessore della Sanità della Regione Lazio. Buonasera e grazie dell'invito. Allora, assessore, è tutto pronto? Lo stoccaggio, la distribuzione, soprattutto le celle frigorifere, perché questo è un vaccino che va conservato a meno 70 gradi e i dati aggiornati al 15 dicembre dicono che su 9 regioni e una provincia, su 21, non avevano ancora le celle necessarie. Fra queste anche il Lazio ne aveva 18 su 20. È migliorata la situazione? Siete pronti? Sì, siamo assolutamente pronti. Noi già oggi possiamo ospitare e stoccare oltre 1 milione di dosi di vaccino, per cui non abbiamo su questo versante alcun problema, devono solo arrivare i vaccini. Parteciperà anche l'esercito? Dal punto di vista logistico, come avverrà la vaccinazione? Ma allora, intanto queste dosi arriveranno allo Spallanzani, le 9.000 che verranno poi portate in tutte le regioni italiane da cura dell'esercito, e il 27 mattina ci sarà la prima somministrazione presso l'istituto Spallanzani, i primi 5 sono operatori sanitari, un infermiere, un operatore sociosanitario, 2 medici e una ricercatrice. Questo anche a simboleggiare l'unità di intenti verso il personale sanitario. E successivamente poi procederemo nei confronti del resto del personale sanitario e dell'RSA. Tutto pronto, insomma, ecco. Noi la cosa importante è avere certezza degli arrivi, anche perché questo vaccino ha bisogno poi di un richiamo, per cui deve essere fatto in tempi stabiliti. Per quanto riguarda la risposta invece delle persone che si vanno a vaccinare, avete dati da questo punto di vista? Avete fatto dei sondaggi? Che tipo di risposta c'è? Ma allora, adesso per il personale sanitario noi stiamo a un livello di adesione superiore all'80%, per cui un'adesione molto alta, e questo ci rincuora dell'aspettativa che si ha sul vaccino e del fatto che si vede la luce in fondo al tunnel, un tunnel che sta durando oramai da molti mesi e che purtroppo anche ha fatto molte vittime nel nostro paese, per cui il vaccino è visto come una speranza di uscire fuori da questa angoscia chiamata Covid. Grazie Alessio D'Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio. Grazie a voi. Abbiamo parlato dei vaccini e chiudiamo con il problema dei vaccini nelle baraccopoli. A Rosarno, in Calabria, lo sapete, c'è una baraccopoli nella piana di Gioia Tauro e le persone che vivono in quella situazione, per lo più migranti, vivono una situazione difficile e non sempre possono avere accesso alle strutture sanitarie, e quindi la preoccupazione è che siano magari vaccinate anche loro, oltre alle preoccupazioni relative al distanziamento che è difficile in quelle circostanze. Alberto Barbieri, buonasera, coordinatore generale MEDU, Medici per i Diritti Umani. Buonasera a voi. Voi avete lanciato una campagna di raccolta fondi che si chiama Tamponiamo Rosarno. Perché l'avete lanciata? Non c'è il sistema sanitario che copre la necessità di fare screening con i tamponi e poi anche con la vaccinazione? Sì, premetto che Medici per i Diritti Umani lavora nella piana di Gioia Tauro dal 2014, oramai da 6 anni. Abbiamo una clinica mobile che fornisce assistenza sanitaria, orientamento sociosanitario alle migliaia di lavoratori braccianti, in prevalenza stranieri, migranti, che ogni anno da novembre fino a marzo-aprile arrivano nella piana di Gioia Tauro per la stagione agrumicola, per la raccolta delle arance, dei mandarini, e si trovano a lavorare e a vivere in condizioni drammatiche di sfruttamento, in condizioni igienico-sanitarie terribili. Quindi la nostra presenza in Calabria è data oramai da 6 anni e lavoriamo specificamente nella piana di Gioia Tauro su questa tematica. Quest'anno ci è arrivato un appello dal comune di Rosarno, al sindaco di Rosarno, essendo noi appunto un'organizzazione medico-umanitaria, a un intervento sul Covid che fosse destinato a tutta la cittadinanza. In questo momento il sistema sanitario calabrese è chiamato a rispondere appunto a una pandemia che è drammatica in tutto il paese, e in Calabria ci sono particolari difficoltà di risposta, e quindi ci siamo sentiti in dovere di rispondere a questo appello del Comune di Rosarno. Quindi è indirizzato a tutti i cittadini di Rosarno, non soltanto ai migranti. No, questo è molto importante, per noi è fondamentale. Il nostro obiettivo come organizzazione umanitaria è di portare aiuto sanitario alle popolazioni vulnerabili in situazioni di crisi. Quindi in questo momento c'è una necessità di essere a fianco agli operatori sanitari calabresi, al sistema sanitario calabrese, e quindi il programma screening con tamponi rapidi è rivolto a tutta la cittadinanza del comune di Rosarno. Come dicevo, è un progetto che facciamo insieme a Mediterranean Hope, che è il programma migranti e rifugiati della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che ringraziamo per l'appoggio, e già in un mese abbiamo fatto diverse centinaia di tamponi con i nostri operatori della clinica mobile nelle scuole, abbiamo installato dei drive-in. E contiamo di continuare nelle prossime settimane, grazie anche a questa raccolta fondi, a questa crowdfunding che abbiamo lanciato. Che avete lanciato, è chiaro. Esatto. Grazie ad Alberto Barbieri, coordinatore di Medici per i Diritti Umani. Noi ci fermiamo per il traffico, subito dopo parliamo di raccolta differenziata, quindi cambiamo completamente argomento, e anche di calcio. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vecchio cartone, quante cose ha imballato, solo ora capisco il male che ti ho fatto. Getta la carta nella carta, ma scarta la carta che non va nella carta, getta il cartone nel bidone. E già che sei in ballo, elimina la plastica dal collo, perché il cartone non è bello se non è riciclarello. Si intitola Vecchio cartone, è la nuova canzone di Elio e le Storie Tese, fa ovviamente eco al più classico pezzo Vecchio Scarpone, e in pratica è un manuale sonoro per sottolineare quali siano le buone pratiche per un corretto riciclo. L'idea arriva da Comieco, che è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica. Abbiamo con noi il direttore Carlo Montalbetti, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Come mai, direttore, proprio Elio Le Storie Tese? Perché abbiamo scoperto con un sondaggio che è stato fatto su base nazionale che le forme artistiche, in particolare la musica, è ritenuta dai nostri concittadini una delle modalità più attraenti e interessanti per sensibilizzare e comunicare cosa fare per far bene all'ambiente. E ce n'è ancora bisogno, a quanto pare. Sembrava la raccolta differenziata ormai entrata nei costumi degli italiani. E in effetti è così. Tenga conto soltanto che ormai viaggiamo su una raccolta cittadina che si aggira sui 3 milioni e mezzo di tonnellate, quindi un balzo impressionante in 20 anni, eravamo sotto 1 milione 20 anni fa, ma questa raccolta di carta e cartone è una raccolta che presenta qualche problema sotto il profilo della qualità, cioè come almeno in alcune aree importanti del paese viene conferita dalle famiglie con una presenza di materiale strano e quindi con dei costi poi importanti di selezione o di smaltimento degli scarti industriali. Ecco il perché abbiamo scelto questa volta di metterla in musica, questa comunicazione, per aiutare i nostri concittadini a fare meglio la raccolta di qualità di carta e cartone. L'errore che facciamo più frequentemente qual è? Guardi, l'errore più facile è quello di considerare gli scontrini come carta da raccogliere per riciclare. È una carta termica e quindi è impossibile riciclarla, va messa nel sacco nero. Un altro errore che si può fare è quello della carta forno. Il nome sembrerebbe invitante, è utilizzata evidentemente per le preparazioni in cucina, ma non va assolutamente bene per il riciclo della carta. E poi un'attenzione particolare per quanto riguarda il conferimento della carta. Alcuni usano ancora i sacchetti di plastica senza poi pensare di metterci la carta e togliere il sacchetto di plastica, che peraltro può essere di nuovo riutilizzato, e quindi questo poi comporta tutta una serie di problemi nella selezione. Abbiamo deciso di fare questa campagna con Elio e le Storie Tese, che dal sondaggio risulta il primo gruppo italiano musicale per quanto riguarda la musica pop nelle preferenze degli italiani, e l'abbiamo pensato di fare proprio adesso che il periodo natalizio, purtroppo anche con il Covid che dobbiamo in qualche modo fronteggiare, ma rimane un momento molto importante anche negli scambi dei doni, dei regali, e quindi anche di una presenza importante di imballaggi. Grazie, direttore. E noi cambiamo argomento dandovi un aggiornamento su quello che sta accadendo in Sicilia, perché c'è stata una scossa di terremoto stimata dall'Istituto Nazionale di Geofisica di magnitudo 4.6, è stata avvertita alle 21:27 nella Sicilia orientale. La terra ha tremato per una decina di secondi. Il sisma è stato nettamente avvertito nel Ragusano, nel Siracusano, nel Catanese. L'epicentro è stato localizzato a 15 km da Acate, in provincia di Ragusa, a una profondità di 16 km. Vedremo in serata se ci saranno sviluppi di questa notizia, se ci saranno danni da questo punto di vista. Noi passiamo a parlare invece di calcio, ricollegandoci con il nostro Giovanni Capuano. Buonasera. Eccoci. Eccoci Giovanni. Partiamo dalla 14ª di Serie A, direi, no? Sì, partiamo da Juventus-Fiorentina, che si sta giocando un minuto sul cronometro nel corso del secondo tempo a Torino. Juventus che è sotto 1-0 e ha giocato un pessimo primo tempo, ha subito al terzo la rete di Vlahovic in contropiede, una clamorosa disattenzione della difesa bianconera. Juventus che poi è rimasta in 10 uomini al 18esimo per l'espulsione di Cuadrado, brutta entrata su Castrovilli, prima cartellino giallo esibito dal direttore di gara La Penna, poi l'intervento del VAR e il cartellino rosso. Ha avuto almeno altre 3 chance la Fiorentina per arrivare al raddoppio, soltanto nel finale con un paio di spunti di Cristiano Ronaldo la Juventus ha cominciato a farsi vedere, ma è evidentemente una Juventus che sta giocando una partita pessima in questa serata e in una giornata già complicata nel pomeriggio dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI che ha cancellato il 3-0 a tavolino per la partita fantasma, quella del 4 ottobre contro il Napoli, mai disputata perché il Napoli non si presentò per una vicenda complessa di indicazioni da parte delle ASL campane. E dunque Juventus che in questo momento è a 7 punti dalla capolista Milan e ha qualche difficoltà evidente sia in campo che in classifica. Per quanto riguarda la reazione dei giocatori, so che nello spogliatoio è partita l'esultanza del gruppo. Ma sì, diciamo che questa era una sentenza molto attesa a Napoli, dove confidavano, questo era il terzo grado di giudizio, di poter ribaltare i primi due gradi, quello del giudice sportivo e la Corte federale d'appello. E dunque è stata accolta con grande soddisfazione la sentenza che di fatto riporta il Napoli nella corsa scudetto. Napoli che non sta attraversando un grande momento, ma che ora è quarto, ha agganciato la stessa Juventus a quota 24 punti. Ci sono stati dei commenti, c'è la parte del commento della società, del presidente De Laurentiis, che ha detto: abbiamo rispettato le regole, non potevamo essere puniti. C'è un coro di commenti positivi che viene anche da tutta la politica campana e la politica di Napoli. Prima di questo Juventus-Fiorentina ha preso parola anche la Juventus, che non si è mai costituita in giudizio nel corso dei tre gradi di questa vicenda e che ha sempre tenuto un profilo abbastanza basso, sostenendo sostanzialmente di essere pronta ad adeguarsi a qualunque decisione da parte della giustizia sportiva ed eventualmente anche ad accettare il fatto che questa partita si debba rigiocare, si debba giocare in campo, cosa che avverrà probabilmente a gennaio, anche se è molto complesso, perché tecnicamente pensa se Juventus e Napoli entrambe andassero fino in fondo, sia in Coppa Italia che nelle rispettive manifestazioni europee, la Champions League per la Juventus e l'Europa League per il Napoli, ecco, se accadesse questa cosa, tecnicamente non esisterebbe una data, nessuna data, per poter recuperare la partita. Ora, è chiaro che si tratta di una situazione limite, ma è abbastanza chiaro e comprensibile come in una stagione così compressa come questa, che arriva insomma dopo l'estate della pandemia, anche una gara da recuperare, una gara tra due squadre che hanno impegni europei, diventi un problema per chi deve fare il calendario. Grazie a Giovanni Capuano per questi aggiornamenti. Grazie a te. E noi diamo qualche aggiornamento in più riguardo a questa notizia della Sicilia, di questo terremoto che si è sentito in provincia di Ragusa in Sicilia. L'epicentro, si dice, è stato localizzato ad Acate. Non riportano ancora le agenzie notizie di danni a persone o cose, che speriamo appunto non ci siano. E poi un'altra notizia di agenzia prima di salutarci: AstraZeneca ha fatto sapere che il suo vaccino è efficace contro la variante del coronavirus scoperta in Gran Bretagna. E questa era veramente l'ultima notizia per i nostri 60 minuti di informazione. Io ringrazio in regia Valeria Bernardi, in assistenza Riccardo Poli, in redazione Alessandro Schirano. Vi do appuntamento domani sera, tra pochissimo invece i titoli.